Il termine chiesa deriva da un vocabolo greco che ha il significato di assemblea chiamata fuori. Il termine è applicato all'intero corpo dei cristiani in una città, ad una congregazione o alla somma di tutti i credenti in Cristo. Quest'ultimo rappresenta il senso più ampio e più usato nelle scritture e include sia i viventi sia quelli che sono già alla presenza di Dio. Per questo si parla di chiesa trionfante, cioè tutti quelli che sono morti in Cristo, e di chiesa militante, cioè di tutti i credenti viventi. In merito alla chiesa è fatta anche un'altra distinzione fra la chiesa visibile, ossia tutti i credenti visti dagli uomini, e la chiesa invisibile, costituita da tutti i credenti conosciuti solo da Dio. Al di là delle definizioni attribuite dagli uomini, quali chiesa trionfante, chiesa militante, chiesa visibile o chiesa invisibile, è necessario esaminare almeno 10 similitudini della divina parola riferita alla chiesa, perché trasmettono un insegnamento che mette in risalto la variegata sapienza di Dio. Alcuni ritengono queste similitudini delle espressioni senza nessun significato letterale, ma questo è un errore che si paga caro. Quando la parola di Dio definisce la Chiesa un regno, un gregge, una pianta, una vigna, un edificio, un corpo, una famiglia, un popolo, un sacerdozio e una sposa, intende queste parole nel loro significato letterale. Diversamente sarebbe impossibile cogliere il messaggio che Dio vuole comunicare. È importante fare questa premessa prima di valutare i termini che definiscono la Chiesa, perché la similitudine per forza maggiore si riferisce alla realtà delle cose. È un'ombra della realtà, cioè qualcosa di inferiore alla realtà alla quale si riferisce. Per questo occorre fare un'inversione di marcia nel nostro modo di ragionare. Prendiamo un esempio di una promessa rivolta ai credenti. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Salmo 91.4. Per qualcuno non è possibile prendere alla lettera questa promessa, perché con questo atteggiamento dobbiamo concludere che Dio sia un uccello pennuto, ma la similitudine del rifugio sotto a delle penne è molto inferiore alla realtà di essere sotto la protezione di Dio. Quindi non si tratta di negare l'esistenza della similitudine, ma si tratta di negare che la similitudine o l'accostamento non abbia un preciso senso letterale. 1. La Chiesa di Cristo come un regno. La Chiesa vista come un regno ci parla della collettività umana organizzata. In effetti la Chiesa di Cristo non è composta da un'immensa folla senza meta che passeggia girandolando per il mercato o dispersa nel deserto. La Chiesa di Dio, al contrario, è composta di persone che hanno un re, che ha dato ai suoi sudditi delle norme precise da osservare, stabilendo dei premi per i fedeli e delle sanzioni per i disubbidienti. Il regno di Cristo è un regno presente che si esprime in mezzo ai regni del mondo. È un regno invisibile per chiunque, tranne per colui che è nato di nuovo. Inaccessibile a chiunque, ma non a colui che, udita la parola di Dio, ponendo fede in Cristo quale padrone e salvatore, ha ricevuto lo Spirito Santo. Nessuna persona, per quanto buona, educata e religiosa, può entrare a far parte del regno di Cristo. Questa realtà fu espressa da Paolo in questi termini: or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente la corruzione non eredita l'incorruttibilità. 1 Corinzi 15.50. I primi cristiani che ponevano fede in Cristo non avevano una fede vaga in un vago futuro, ma la loro fede era posta in un regno del quale Cristo era il re. L'apostolo Paolo così scrisse con un senso di orgoglio ai credenti di Colosse: rendendo grazie a Dio e Padre, che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Colossesi 1.1-2.13. La coscienza di far parte di un regno rende chi si definisce credente in Cristo molto più attento al suo comportamento. Per questo, rivolgendosi alla chiesa che si riuniva a Efeso e all'interno della quale alcuni vivevano una vita dissoluta, l'apostolo dei Gentili si preoccupa di informare i membri con queste parole: sappiate infatti questo, nessun fornicatore, o immondo o avaro, il quale è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Efesini 5.5. E ancora, indirizzandosi ai credenti che abitavano nella regione della Galazia: ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, diottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Galati 5.1.9.21. Come in un regno un suddito non può vivere facendo cose sgradite al suo re, così chi non compie la... Se gli uomini hanno questi principi per i loro regni, può Dio avere principi meno morali? Proprio perché nel regno di Cristo non è possibile violare le leggi senza portarne le conseguenze. Coloro che vi sono entrati per la fede non hanno la possibilità di fare quello che vogliono senza le dovute conseguenze. Non vi è dubbio che un figlio di Dio sia destinato a un avvenire alquanto glorioso. Questa promessa ha però indotto alcuni credenti ad affermare che un giorno tutti i figli di Dio regneranno con Cristo. Conclusione questa che, pur avendo del vero, deve essere messa a fuoco, perché le mezze verità sono impeccabilmente precise nel contenuto, ma fallose nelle conclusioni. L'apostolo Paolo non dà per scontato che tutti i credenti regneranno con Cristo. Anzi, stabilisce con certezza proprio il contrario. Questa parola è fedele, perché se siamo morti con Lui pure, vivremo. Se perseveriamo, regneremo pure con Lui. Se lo rinneghiamo, Egli pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché Egli non può rinnegare se stesso. 1 Timoteo 2:11-13. Prima di fare alcune affermazioni, Paolo rassicura che ciò che sta per sostenere è vero e fedele, cioè che tutti i credenti vivranno a condizione che siano morti in Cristo, che Gesù Cristo rinnegherà chi lo rinnega, che Gesù rimane fedele anche se i credenti non saranno fedeli, ma regneranno con Lui. Solo coloro che persevereranno nelle sofferenze. Quindi, come vi sono delle condizioni per vivere con Cristo e per essere rinnegati, così vi è una condizione per regnare con Cristo. Il regnare con Cristo è quindi condizionato dalla nostra costanza. E che sarà dei credenti incostanti e non perseveranti? Non regneranno? Dove saranno se non regneranno? Saranno presenti con tutti i figli di Dio durante il regno di Cristo, apparterranno al regno di Cristo, ma non a tutti sarà dato di regnare. Poiché non saranno stati vittoriosi su questa terra, sulle tentazioni, il peccato, nel servizio, non sarà loro dato alcun compito di governo durante il millennio. E, molto importante tenere ben presente questo aspetto, per ragionare correttamente riguardo alle profezie. Se vi è un errore tra un certo numero di figli di Dio, è proprio il pensare che una volta salvati, essi abbiano raggiunto la meta, e che ogni promessa futura è già assicurata. Nulla di più fatale, perché la vita cristiana è proposta ai credenti come una gara, Ebrei 12:1, e la condotta attuale del credente ne influenza in modo determinante la vita nell'eternità. La vita terrena è un banco di prova per la nostra idoneità a regnare con Cristo. Questa prospettiva di regnare con Cristo nel futuro spiega le ragioni di tanta insistenza da parte degli apostoli nell'esortare il credente alla fedeltà fino alla morte, non solo per garantirgli che la sua non è una fede vana, ma anche per poter entrare nel regno di Cristo con tutti i requisiti per poter regnare. Ne abbiamo un esempio in un brano della lettera dell'apostolo Pietro. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché, se queste cose si trovano in voi, abbondantemente, non vi renderanno pigri né sterili nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, perché ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché, facendo queste cose, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. 1 Pietro 5.5.11. Occorre comprendere correttamente la relazione tra le opere, la perseveranza e le promesse di Dio. Secondo la parola di Dio, non vi è nessuna opera o perseveranza che sia in grado di rendere degno qualcuno di entrare nella Chiesa come regno di Cristo, ma occorrono opere e perseveranza per poter essere degni di sedere sui troni per regnare assieme con Cristo. È in quest'ottica che dobbiamo comprendere il linguaggio di Gesù e le promesse dell'Apocalisse. A chi sarà dato? La Chiesa come regno non sarà omogenea, non tutti saranno uguali. Matteo 5,19. Non tutti brilleremo nella stessa maniera, non tutti avranno lo stesso premio. Romani 8,17. Non tutti conosceranno e serviranno Dio nello stesso modo. Apocalisse 7,13-15. Non tutti occuperanno la stessa posizione. Matteo 20,23. Non tutti risorgeremo con la stessa gloria. Ebrei 11,35. Ma tutto sarà proporzionato alle vittorie che avranno perseguito i credenti qui in terra e a come avranno investito eteleria, vero che apparterranno al regno di Cristo tutti coloro che sono stati salvati per grazia, mediante la fede. Ma è altresì vero che colui che trascura o perde la possibilità di farsi tesori in cielo, di ottenere un premio, una corona, trascorrendo una vita cristiana senza frutti, senza consacrazione, senza riconoscenza, commette uno dei suoi più grossi errori, i cui effetti gli saranno visibili nell'eternità. La Chiesa di Cristo come regno è un impero dove santità e l'iniquità riceveranno la giusta retribuzione dal Re. 2. La Chiesa di Cristo come un gregge. L'aspetto della Chiesa di Cristo come un gregge ci parla della relazione della collettività con Gesù, il Figlio di Dio. Questa relazione mette in evidenza due aspetti importanti del credente. L'essere prima una pecora, poi far parte di un gregge. Non è proprio possibile trattare questo tema senza prendere in esame ciò che Gesù intendeva affermando di essere il buon pastore e i suoi seguaci di essere le pecore. Gesù ha espresso questa verità nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10. In verità io vi dico, chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore ma vi sale da un'altra parte, quello è un ladro e un brigante, ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. E, quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Non seguiranno però alcun estraneo, ma fuggiranno lontano da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Prima di avere una relazione collettiva con Cristo, Gesù, la pecora, cioè il credente, ha una relazione personale con il suo pastore. L'aspetto di una relazione personale con Cristo è sconosciuto nell'ambito della religione cattolica romana, anche se il cattolicesimo non lo ignora e anzi incoraggia una relazione personale con Dio. Occorre comprendere questa apparente contraddizione. Il principio base della religione cattolica romana è che il credente è obbligato ad un'irrevocabile adesione di fede al magistero della religione cattolica romana, che si esprime nella persona del Papa e dei Vescovi in comunione con lui e, solo in seguito, egli è libero di avere un rapporto personale con Dio. Perciò per il credente cattolico romano il rapporto di comunione con Dio è condizionato dall'autorità del magistero vivente della sua religione, ne danno dimostrazione i cambiamenti di certe espressioni religiose attuati nella storia dal magistero. Basti pensare a qualche decennio di anni fa, quando prima di prendere l'ostia era d'obbligo stare a digiuno per ore e inoltre era assolutamente vietato e peccato toccarla. Mentre al presente questo non è più peccato. anche il rapporto con altre confessioni religiose è cambiato. Mentre quando ero giovane, io che avevo e ho abiurato il cattolicesimo romano ero un dannato, ora sono solo un fratello separato. Questi esempi dimostrano che il magistero della religione cattolica romana è la coscienza dei suoi fedeli, cioè delle sue pecore. La pecora che ascolta la voce di Cristo non ascolterà altre voci, neppure quella del magistero del cattolicesimo romano o qualsiasi altra autorità nell'ambito religioso. Questo non significa che una pecora non faccia tesoro di ciò che è buono nelle altre confessioni che si definiscono cristiane. Ma la pecora che ascolta solo la voce di Cristo riterrà peccato e giusto solo quello che la parola di Dio dirà in proposito. Ciò comporta ovviamente da parte della pecora una relazione quotidiana con il suo pastore. Comporta un orecchio attento, un cuore puro, obiettivi sani e una volontà determinata a voler seguire ad ogni costo il volere di Dio. Per questo, la pecora che segue Cristo spesso si troverà andare controcorrente come il suo pastore, il quale faceva e diceva cose che i religiosi formalisti condannavano. Seguire Cristo significa non seguire la maggioranza delle persone, come praticare la giustizia, e la fedeltà significa essere soli nella società. Gesù accolse la donna adultera quando tutti la condannarono, cercò il capo dei pubblicani quando tutti a motivo di lui mormoravano, chiamò i piccoli fanciulli quando tutti volevano allontanarli, perdonò a Pietro quando lui stesso si condannava, elogiò l'offerta della vedova quando lei non fu notata da nessuno, promise al ladrone penitente il regno dei cieli quando tutti desideravano l'inferno, chiamò Saulo da Tarso al suo per vizio, quando tutti lo temevano come persecutore, sfuggì alla gloria quando tutti volevano incoronarlo re, valorizzò i poveri quando i ricchi pensavano di essere soli a valere, guarì i malati quando essi furono da tutti dispensati, tacque quando tutti lo accusarono, lo schernirono e lo maltrattarono, morì in croce mentre tutti festeggiavano la Pasqua e si caricò delle colpe di tutti. Allorché tutti si lavavano le mani nell'innocenza, risuscitò dalla morte quando tutti pensavano che ormai tutto era finito. Questo è il buon pastore delle pecore, e le pecore che seguono la sua voce non possono essere diverse. Il cristianesimo non è una bella idea romantica da seguire, ma una realtà stretta e angusta, che pochi sono in grado di imboccare e seguire. La pecora, prima di essere cosciente di far parte di un grande gregge, deve essere cosciente di dover seguire un pastore, e spesso proprio là dove non vorrebbe andare deve essere disposta ad imboccare una strada senza ritorno, nella quale non vi sono sentimenti di nostalgia del passato e legami terreni che possono frenare la propria totale consacrazione al suo pastore. Solo dopo essere cosciente di appartenere al suo pastore, la pecora, cioè il credente, si rende conto di appartenere al grande gregge che segue il proprio buon pastore. Purtroppo vi sono persone che curano la loro relazione con Cristo senza dare la stessa importanza alla relazione che hanno con Cristo tramite la Chiesa. È vero che la Chiesa non deve sostituire il rapporto diretto con Cristo, ma non deve neppure essere considerata una realtà della quale si possa fare meno. La Chiesa di Cristo è presente sulla terra quale mezzo per dimostrare che veramente si ama Dio. Le parole dell'Apostolo Giovanni, se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. 1 Giovanni 4:20 devono essere prese sul serio. La Chiesa di Dio è vista come un gregge, perché ogni pecora che ascolta la voce del suo pastore deve seguire il pastore assieme alle altre pecore, e se non trova delle pecore che la pensano come lui, allora il problema non è più del gregge ma della pecora. L'Apostolo Giovanni, sempre pratico e realista, ha risolto una volta per sempre la questione del rapporto che devono avere le pecore fra di loro, spiegando perché le pecore non riescano ad essere unite nel seguire il loro pastore. La problematica dell'unità della Chiesa è sempre stata viva. Anche ora si fanno congressi, incontri, dibattiti, per cercare di risolvere questo dilemma e, se si vuole, non solo dilemma, ma peccato davanti a Dio. L'Apostolo Giovanni ha così risolto la questione. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. 1 Giovanni 1.6.7. Secondo la parola di Dio, la comunione fraterna è condizionantico testamento ad al rapporto individuale che le pecore hanno con il loro pastore. La Chiesa è unita come gregge quando ogni pecora segue il suo pastore e cammina nella luce, cioè nella verità e nell'amore. Perciò occorre ritornare al punto di partenza al quale abbiamo dedicato tanto tempo. Prima di far parte di un gregge, il Figlio di Dio deve, come pecora, curare il suo rapporto con Cristo quale vero e unico sommo pastore, il vero ed unico Papa, il vero ed unico Duce. Diversamente, la Chiesa non è un unico gregge, ma una sbandata mandria di anime in pena. La similitudine della Chiesa come gregge deve spronare ogni figlio di Dio ad avere un giusto rapporto con il suo buon pastore, per avere in seguito un rapporto giusto con le altre pecore, per poter formare un solo gregge all'interno del quale ogni qualsiasi altro pastore diverso da Cristo è un ladro e un brigante. Occorre anche riconoscere che nelle chiese, allo scopo di mantenere l'ordine e il decoro, vi sono delle persone nominate al compito di guida, che la Scrittura definisce presbiteri o conduttori. Ma queste persone non dovranno mai sostituire l'unico vero e solo pastore e guida della Chiesa. Infatti, coloro che sono preposti alla direzione di una comunità sono tali nella misura della loro sottomissione a Cristo, in modo che la sottomissione di una comunità non sia tanto alla persona del conduttore, ma a Cristo stesso. Come riconoscere un vero conduttore di un gregge di anime? Gesù ha dato i parametri. Li riconoscerete dai loro frutti. Il compito dei pastori d'anime è pascere il gregge di Dio, perciò il gregge appartiene a Dio e non al conduttore. I conduttori di un gregge non devono signoreggiare sul gregge, ma semplicemente curarlo, nutrirlo e farlo crescere in libertà. Il vero pastore, o conduttore terreno, non offende il gregge, ma lo difende seguendo l'esempio di Gesù, il quale, durante l'arresto avvenuto nell'orto degli ulivi, dell'opera di soldati mandati da falsi pastori, mise in luce il carattere del vero pastore, preoccupandosi non di se stesso ma del suo piccolo gregge. Quando disse: «Se dunque cercate me, lasciate andare questi», Giovanni 18, 4 a 9, i pastori terreni, costituiti dal sommo pastore Gesù Cristo, seguendone la traccia, si impegnano affinché nessuna pecora affidata loro si perda. È necessario ricordare sempre che anche il pastore a sua volta è pecora del gregge curato dal sommo pastore Gesù Cristo, perciò anche lui è soggetto a debolezze, a tentazioni e prove. Per questo ha bisogno dell'aiuto delle pecore, ha bisogno di consigli, di consiglieri e di una pecora amica. Ci è diversità di spirito e di intenti fra il pastore terreno e il mercenario. Il vero pastore continua ad amare e aiutare il gregge che Dio gli ha affidato, anche se non è ricambiato nell'amore, anche se non riceve alcun aiuto. Il falso pastore, la cui ambizione non è appagata dal gregge, fa presto ad abbandonarlo e a fuggire. Ma la Chiesa di Cristo non è in balia degli uomini, perché su di essa veglia Gesù, edificandola, nutrendola, amando personalmente ogni pecora, affinché, per mezzo della Chiesa, nel tempo presente sia manifestata ai principati e alle potestà, nei luoghi celesti, la multiforme sapienza di Dio. Efesini 3 e 10. A noi pecore non resta che lodare il nostro unico pastore Gesù Cristo. 3. La Chiesa di Cristo come una pianta. Gli alberi sono fra gli oggetti più comuni del nostro pianeta. Proprio per questo, la parola di Dio paragona la Chiesa di Cristo ad una pianta, affinché sia evidente come deve essere la Chiesa. Forse, proprio perché le piante sono così comuni, non si colgono gli aspetti paragonabili alla Chiesa di Cristo. Per questo è necessario fare un confronto. La similitudine fra la Chiesa di Cristo e una pianta ci parla della legge della crescita, legge che possiamo notare nella parabola del granello di senape, raccontata da Gesù nel Vangelo di Matteo. Gesù propose loro un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è certamente il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande di tutte le erbe e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami, Matteo 13:3-1-3-2. Che la Chiesa di Cristo abbia come primo aspetto la crescita è fuori da ogni dubbio. Perché 2000 anni fa coloro che hanno dato avvio alla fede che oggi i cristiani professano erano in numero di 12 persone, mentre oggi se ne possono contare circa 1 miliardo e 500 milioni. Del notevole sviluppo che fin dal suo esordio ha contrassegnato il cristianesimo ha dato una bella testimonianza a Tertulliano, vissuto dal 160 al 220 d.C. e considerato uno dei padri della Chiesa. In un suo scritto dal titolo Apologeticum egli scrisse in merito alle accuse di sobillare il mondo rivolte ai cristiani. Ma lungi da noi il pensiero che la nostra religione divina possa vendicarsi con il fuoco degli uomini, lamentarsi di sofferenze nelle quali essa viene provata. Se infatti noi volessimo agire, non dico da vendicatori segreti ma da nemici dichiarati, mancheremmo forse della forza dei reparti e delle schiere. Siamo di ieri ma abbiamo già riempito il mondo e tutti i vostri territori, le città, le isole, le fortezze, i municipi, le borgate, gli stessi accampamenti, le tribù, le decurie, la reggia, il senato, il foro. Abbiamo lasciato a voi solo i templi, noi possiamo contare i vostri eserciti. In una sola provincia saremmo in maggior numero. Di qual guerra? Non saremmo capaci, non avremmo il coraggio necessario, anche se fossimo in pari di numero, noi, che tanto volentieri ci lasciamo trucidare, se di fronte alla nostra dottrina non ci fosse imposto di lasciarci uccidere piuttosto che di uccidere. Tertulliano l'ha detta giusta. I cristiani verso il 200 d.C. erano tanto numerosi che se avessero voluto avrebbero conquistato l'impero di Roma. Anche oggi le cose non sono cambiate. Da 12 persone i cristiani sono così numerosi e sparsi in tutto il mondo che se avessero la chiamata a far guerra vincerebbero ogni esercito e ogni nazione. Ma la chiamata della Chiesa di Cristo è quella di seguire il suo Maestro, il Signore e Salvatore. Perché come Gesù ha vinto lasciandosi crocifiggere, così i veri cristiani diffondano la loro fede, anche a costo della loro vita. Ancora una volta Tertulliano testimonia di come il cristianesimo si è diffuso e termina la sua arringa in difesa della fede cristiana con queste parole. Eppure a nulla servono le vostre più ingiuste crudeltà, sono piuttosto un'attrattiva per la nostra setta. Noi diventiamo più numerosi tutte le volte che siamo falciati da voi. Il sangue è il seme dei cristiani. Molti di voi esortano a tollerare il dolore e la morte. Così Cicerone, Seneca. Tuttavia, le loro parole non trovano tanti seguaci, quanti ne trovano i cristiani che insegnano con l'azione. Quella stessa testardaggine che voi ci rinfacciate è un insegnamento. Chi infatti alla vista di tale ostinazione non si sente turbato e non ricerca che cosa vi sia in fondo a questo mistero? Chi, quando l'ha scoperto, non si accosta, e quando si è accostato non desidera di soffrire per acquistarsi intera la grazia di Dio, per ottenere il perdono completo in cambio del proprio sangue? Ogni colpa, infatti, con quel sacrificio, è condonata. Ed ecco perché dire ringraziamo per le vostre sentenze. La differenza fra le cose divine e le umane è che, mentre noi siamo da voi condannati, siamo assolti da Dio. Dunque, a 200 anni dalla sua morte, la Chiesa di Cristo diventava sempre più numerosa nonostante fosse perseguitata, al punto che i martiri cristiani erano il seme per la conversione di altre anime. Anche oggi, in molte parti del mondo, i cristiani vengono perseguitati e barbaramente assassinati. Basti pensare ciò che è successo in Turchia nel 2005. Il 12 febbraio è stata minacciata una comunità cristiana, il 21 aprile sono stati picchiati dei cristiani per aver testimoniato la propria fede, il 1 novembre sono stati processati dei cristiani perché Che dire poi dei nazionalisti turchi quando massacrarono letteralmente oltre 1 milione di armeni, cioè cristiani. Nonostante tutto, la Chiesa di Cristo cresce come una pianta e come tale porta i suoi frutti. La somiglianza della Chiesa di Cristo a una pianta mette in evidenza un altro aspetto, cioè quello delle radici. Qualsiasi pianta per essere tale deve avere delle radici, questa è l'unica parte che solitamente non si vede. Eppure, Le radici sono la parte più importante della pianta, perché da esse ne viene il nutrimento e la stabilità. Nel paragone considerato si mette in evidenza il segreto della crescita della Chiesa di Cristo. Essa deve avere un segreto rapporto individuale con chi è il datore di vita. Deve nutrirsi del cibo di Gesù Cristo, che è il pane della vita, e ad esso deve stare attaccata per poter resistere ai venti contrari come la persecuzione e la morte. Il rapporto segreto ed intimo con Gesù viene messo in evidenza molte volte nella Scrittura, come per esempio nel Salmo 1. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge. Medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Queste non sono solo belle parole moralistiche, ma mettono in evidenza che se la Chiesa di Cristo si comporta correttamente è come un albero che ha le sue radici vicino ad un corso d'acqua. Chi ha notato un albero vicino ad un corso d'acqua avrà visto come questo sia sempre rigoglioso in tutte le stagioni, soprattutto quando ci è la siccità. Così è della Chiesa di Cristo. Se essa cresce nonostante tutte le persecuzioni, il segreto sta nelle radici, cioè nel suo segreto rapporto personale con Cristo mediante la parola di Dio. Nessuno, ma proprio nessuno, potrebbe resistere a tanta opposizione come la Chiesa di Cristo senza il segreto di leggere e meditare, mettere in pratica la parola di Cristo. Come afferma il Salmo 1, la parola di Dio non deve essere solo oggetto di meditazione, ma essa deve essere anche un diletto, cioè un piacere studiarla e metterla in pratica non tanto per un atto religioso, ma perché essa è la verità, perché produce la fede, insegna e corregge il credente, è in grado di parlare a chi ha un cuore onesto e sincero, perché essa è capita anche dai fanciulli, ed è in grado di condurre alla salvezza l'incredulo e di condurre il credente sulla retta via. La crescita della Chiesa di Cristo è condizionata dalla conoscenza che questa ha della parola di Cristo. Le piante di alto fusto hanno radici molto lunghe, tanto è vero che si è verificato che esse hanno la capacità di estendersi tanto lontano dal tronco secondo l'esatta misura della loro altezza. Il paragone fra la pianta e la Chiesa sottolinea la necessità del credente di approfondire sempre più il rapporto personale con Cristo. Rapporto con Cristo per alcuni potrebbe significare avere una vita ascetica, fuori o non a contatto con la realtà, ma secondo la parola di Dio, avere comunione con Cristo significa conoscerne la persona e l'insegnamento. Pochi hanno compreso la necessità di impegnarsi nell'approfondire l'insegnamento di Cristo e si accontentano di conoscere verità semplici e sconnesse su Gesù quasi fosse una virtù. Eppure, per crescere la Chiesa ha bisogno soprattutto di conoscere le dottrine che Gesù ha insegnato. In effetti, più volte Gesù ha parlato della sua dottrina, mettendola in antitesi a quella dei religiosi scribi e farisei. Non solo. Gesù si preoccupò anche di chiarire che la sua dottrina non era una novità e nemmeno il risultato di un suo punto di vista come hanno fatto e fanno i fondatori di grandi religioni, ma specificò che la dottrina da lui insegnata veniva direttamente da Dio. Infatti così si è espresso secondo il Vangelo di Giovanni. La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Giovanni 7.1-6.17. È forse opportuno definire cosa sia una dottrina, perché le idee in merito sono disparate. Molti pensano che la dottrina sia un dogma, cioè una dichiarazione dell'uomo intorno ad una verità esposta nella Scrittura, o la tradizione, cioè ciò che si è sempre fatto così, un'abitudine, oppure una cosa che si fa senza pensarci, cioè seguire i principi della propria comunità come la confessione di fede. Ma per Gesù la dottrina è la rivelazione di Dio su di una verità esposta nella Scrittura, e che la Chiesa è tenuta a investigare, credere e praticare. Come un albero non cresce se non si nutre di acqua pura, così la Chiesa per crescere deve attenersi alle sane parole di Cristo, al punto che Paolo disse: «Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti. 1 Timoteo 6.3.4 Nel mondo vegetale e animale, come per l'uomo, non vi è crescita senza un sano nutrimento. Cristo è la Chiesa, la soluzione per la crescita della Chiesa. Per essa, dunque, Cristo Gesù non è solo il Re o il Pastore, ma anche il sano nutrimento mediante il quale crescere. 4. La Chiesa di Cristo come una vigna. L'aspetto della Chiesa di Cristo come una vigna ci parla della dipendenza da Cristo. Che la Chiesa sia paragonata ad una vigna è un paragone molto noto al tempo di Gesù, perché il popolo di Israele era per l'Eterno Dio come una vigna, Isaia 5.7, Osea 10.1. Infatti, Gesù nella parabola della vigna e dei vignaioli aveva predetto ai suoi ascoltatori che il popolo di Israele sarebbe stato messo da parte e al suo posto avrebbe suscitato un popolo che avrebbe prodotti i frutti che il vignaiolo, cioè Dio, avrebbe voluto. Infatti, così Gesù termina la parabola. Che cosa farà loro il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Essi, udito ciò, dissero: non sia mai. Luca 20.9. I giudei non avrebbero mai voluto che Dio si scegliesse altri all'infuori di loro, ma i piani di Dio si avverano. Così, alla festa della Pentecoste, nacque la Chiesa di Cristo, che in seguito sarebbe stata composta da giudei e gentili. Così, poiché il concetto della vigna e del vignaiolo non era nuovo, Gesù disse le seguenti parole: «Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto, lo pota, affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata, dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, e nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio, e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Giovanni 15.18. La vigna è il luogo dove viene prodotto il frutto dell'uva, e l'uva viene prodotta dalla pianta della vite. Ma non tutte le viti producono l'uva, soprattutto se sono secche o improduttive. Gesù si paragona non solo alla vite dalla quale viene il frutto dell'uva, ma alla vera vite, intendendo dire, con questo, che ogni altra vite, meno, cioè ogni cosa che sarebbe in grado di produrre frutti meno, non è la vera fonte da dove derivano i veri frutti. Ancora una volta il discorso di Gesù è esclusivista, cosa che lo rende non solo diverso dagli altri uomini, ma in antitesi all'intera umanità. Com'è possibile ancora oggi mettere Gesù al pari di altri fondatori di religioni? Essendo Gesù la vera vite, non esiste vero tralcio fruttifero che non sia attaccato ad esso o dimori in lui. Il verbo dimorare porta subito alla nostra mente l'immagine di abitazione permanente in una casa. Ma dimorare nella vite o dimorare in Cristo è qualcosa un po' più difficile da comprendere. Perciò vale la pena rifletterci su. Il senso di dimorare in Cristo ci è rivelato dall'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera. E questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo Figlio Gesù Cristo. Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio ed egli in lui. 1 Giovanni 3:24. Gesù ha dato dei comandamenti, cioè degli ordini meno e non come si pensa, dei suggerimenti meno. E chi ubbidisce a questi ordini dimora in lui, cioè fa del continuo meno la volontà di Dio. Così, dimorare in Cristo significa compiere ininterrottamente la volontà di Dio. E chi compie in ogni istante la volontà di Dio è un tralcio che porta molto frutto.

mentre la similitudine del regno come chiesa ci parla della collettività umana organizzata, mentre la similitudine della Chiesa di Cristo come un gregge ci parla della relazione della collettività con Gesù. Mentre la similitudine della Chiesa di Cristo come una pianta ci parla della legge della crescita, l'aspetto della Chiesa di Cristo come una vigna ci parla della dipendenza da Cristo. Non vi sono alternative. O Cristo per la Chiesa è il tutto o è il niente. O meglio, la Chiesa è meno che niente. 5. La Chiesa di Cristo come edificio di un tempio. La Chiesa di Cristo, paragonata all'edificio di un tempio, ci parla di un luogo destinato a essere una di dimora per Dio. Come per tutti gli edifici, esso è composto di una pietra angolare, di fondamenta e mura. Per prima cosa, occorre notare che l'edificio non è composto di mattoni, cioè di materiale uniforme, ma di pietre. Ciò significa che i credenti non sono tutti uguali e che il grande architetto troverà il posto adatto alla forma sgangherata di ognuno di loro. Questo primo aspetto dovrebbe essere preso sul serio, perché se vi è una sofferenza nelle comunità dei credenti, è proprio quella di obbligare tutti ad una condotta e coscienza uniforme. Certamente non vi è problema più sentito di quello morale, ma poiché ognuno di noi ha un'etica condizionata dalla cultura, dall'istruzione e dalla conoscenza della parola di Dio, non è possibile imporre ai credenti di compiere le stesse cose. Un figlio di Dio può ritenere giusto impegnarsi nella politica, come un altro. Ritiene giusto mentire pur di portare la parola di Dio nei paesi dove è vietata la lettura. Altri invece no. Tutti i credenti in Cristo sono dunque paragonati a delle pietre. E se nessuna pietra è perfettamente pari come un mattone, significa che i loro comportamenti non sono perfetti, anche perché l'amore, la giustizia, la santità si muovono su terreni imperfetti. Perciò a volte è difficile, se non impossibile, agire senza violare qualche regola morale. La cosa saggia per un credente che fa parte dell'edificio di Dio è accettare di essere imperfetto tra esseri imperfetti in un mondo imperfetto, senza pretendere relazioni perfette. Come per delle pietre, ciò che unisce un credente agli altri non è la forma esatta della pietra, ma la calce, che rappresenta l'amore. E la calce, cioè l'amore, che unisce un edificio, non la forma esatta delle pietre. Il credente, come una pietra, è imperfetto, perciò la sua capacità di rendere altri felici o di essere felici è imperfetta. Molti rapporti fraterni e sociali migliorerebbero se non vi fosse nell'intimo di certi cristiani la pretesa della perfezione. Produrre coscienza e decidere che genere di coscienza produrre negli altri significa voler mettere un mattone in un luogo sbagliato dell'edificio. Mentre la collocazione della pietra nel Tempio di Dio è un compito di Dio stesso. Il compito del credente nell'edificio è di mantenersi unito al fratello mediante l'amore, non cercare di collocarlo dove vuole. Come ogni edificio, la Chiesa ha anch'essa una pietra angolare, cioè quella pietra, chiamata anche cantonale, a forma a L, i cui lati possono essere uguali o disuguali. Questa è la prima pietra ad essere posata e che dà avvio alla costruzione. Mantenendo la similitudine, la Chiesa ha come prima pietra o pietra angolare Gesù Cristo, e in Lui viene edificato l'edificio che è il Tempio di Dio. Questo aspetto non può essere ignorato e deve essere sottolineato in un paese dove la coscienza degli uomini è impregnata di cattolicesimo romano, il quale insegna che la Chiesa è edificata sopra la persona di Pietro, il discepolo e apostolo di Gesù. Così infatti recita il Catechismo della Chiesa Cattolica Romana al paragrafo 552. Nel Collegio dei Dodici Simon Pietro occupa il primo posto. Gesù a lui ha affidato una missione unica. Grazie alla sua rivelazione concessagli dal padre Pietro, aveva confessato: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Nostro Signore allora gli aveva detto: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Cristo, pietra viva, 1 Pietro 2.4. assicura la sua Chiesa fondata su Pietro la vittoria sulle potenze di morte. Poiché l'interpretazione di ciò che ha detto Pietro varia da religione a religione, dobbiamo saggiamente confrontare le altre parti della scrittura nelle quali la parola pietra è adoperata. Ecco cosa disse Pietro stesso nella sua prima lettera. Nella scrittura si legge infatti: «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono, la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata d'angolo, pietra d'inciampo e roccia d'intoppo che li fa cadere. 2:6-8. Non vi sono dubbi, la pietra angolare, ragione di salvezza per chi crede e di perdizione per chi non crede, è Gesù Cristo». L'Apostolo Paolo è ancora più esplicito: «Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito». Efe 2:18-22. Non esiste nessuna affermazione scritturale che dica che Pietro sia la pietra angolare della Chiesa, ma tutta la scrittura afferma senza ombra di dubbio che la pietra angolare è Gesù Cristo. Non ci sarebbe bisogno di dedicare tante parole per dimostrare che la Chiesa come edificio di un tempio abbia come unica pietra angolare Gesù Cristo. Se il cattolicesimo romano non avesse dichiarato spregiudicatamente che la Chiesa è fondata su di un uomo che tra l'altro ha rinnegato Gesù. Ma in un contesto culturale cattolico romano è indispensabile mettere in evidenza un errore dal quale scaturisce che Gesù Cristo sia la pietra angolare dell'edifico di Dio. Lo hanno dichiarato sia Pietro sia Paolo, e si noti che quest'ultimo lo proclamò quando Pietro era ancora in vita. Che poi la pietra angolare della Chiesa sia la testimonianza di Pietro, secondo l'interpretazione protestante, lo dice alla fine anche il Romanesimo nel Catechismo della Chiesa Cattolica Romana al paragrafo 424. Mossi dalla grazia dello Spirito Santo e attirati dal Padre, noi, riguardo a Gesù, crediamo e confessiamo: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente», Matteo 16:16. Sulla roccia di questa fede, confessata da San Pietro, Cristo ha fondato la sua Chiesa. Così, ancora una volta, nel cattolicesimo romano è possibile professare più aspetti del cristianesimo. L'importante è che il fedele, come afferma il paragrafo 890, aderisca indefettibilmente alla fede sotto la guida del magistero vivente della Chiesa. Al cattolicesimo romano non interessa tanto che il fedele sia coerente con la scrittura, ma che sia obbligato, come dice il paragrafo 85, ad un'irrevocabile adesione di fede al magistero della Chiesa in comunione con il Papa. Ma siano rese grazie a Dio che la vera Chiesa di Cristo ha come pietra angolare Gesù Cristo stesso, perché Lui è il Re della Chiesa come regno, è il Pastore della Chiesa come gregge, è la radice della Chiesa nella similitudine della pianta, è il tralcio dal quale il credente può portare frutto, è il marito della Chiesa vista come sposa, è il capo della Chiesa vista come corpo, è il padre della Chiesa vista come una famiglia, è la storia della Chiesa vista come un popolo, ed è l'unico vero Dio da servire e adorare per la Chiesa vista come un sacerdote. Ancora una volta occorre concludere che non vi sono alternative. Cristo per la Chiesa o è tutto o è niente. O meglio, la Chiesa senza Cristo quale pietra angolare e tutti gli altri suoi attributi è meno che niente. Perciò non è comprensibile come la religione cattolica romana che si professa cristiana sia tanto ostile a chi professa Gesù Cristo quale pietra angolare, perché lo scopo di questa professione di fede è solamente quello di dare gloria a Cristo. Il cattolicesimo, quindi, dovrebbe esserne orgoglioso. Se invece una tale professione umilia la gloria e il potere dei papi e dei vescovi, a loro non resta che ravvedersi, pentirsi e cambiare atteggiamento. La Chiesa, dunque, è un edificio, e non un edificio qualunque, ma un tempio del Dio Trino. Il fatto che la Chiesa sia il Tempio di Dio non scaturisce da un ideologismo religioso o da una fantasia, speculativa, tant'è vero che persino i credenti dell'Antico Testamento erano talmente coscienti della grandezza dell'Eterno, al punto da domandarsi se veramente potesse abitare in qualche luogo. Infatti, quando Salomone costruì il Tempio in onore dell'Eterno, rifletté con una certa sorpresa. Ma è proprio vero che Dio abita con gli uomini sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questo Tempio che io ho costruito. 2 Cronache 6 e 18. Proprio perché l'Eterno è maestoso e grande, i credenti chiedevano con orgoglio: chi è simile all'Eterno, il nostro Dio che abita nei luoghi altissimi? Salmi 113.3. Eppure, Gesù rivelò il fatto straordinario che il Dio Trino avrebbe fatto del credente il suo tempio e di conseguenza anche della Chiesa. Così disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui, e faremo dimora presso di lui. Giovanni 14 e 23. E dello Spirito Santo profetizzò: Pagostar appunto lo Spirito della verità, Pagostar appunto il mondo non può ricevere, ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Giovanni 14 e 17. Così, il Dio Trino dei cristiani ha scelto come tempio coloro che pongono fede in lui. Questo tempio viene chiamato l'edificio di Dio, la dimora di Dio, avente come pietra angolare Cristo Gesù. Su questo non vi sono dubbi. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto io ho posto il fondamento ed altri vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. 1 Corinzi 3.9-11. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Efesini 2.1-9-22. È molto difficile comprendere come si possa sostenere che l'Apostolo Pietro sia la pietra della Chiesa e la religione cattolica romana sia il fondamento della fede cristiana, ma a volte è saggio cercare di non comprendere e limitarsi a confessare Cristo Gesù quale pietra angolare e fondamento della propria professione di fede. Di questo non ci si potrà mai pentire. 6. La Chiesa di Cristo come un corpo. La similitudine fra la Chiesa di Cristo e un corpo ci parla delle differenti funzioni dei figli di Dio. È un errore molto comune ritenere il regno di Dio e la Chiesa delle situazioni piatte o incolore, ma non vi è niente di più diversificato di ciò che fa il Dio creatore. Infatti, se colui che ha creato l'universo, il mondo sul quale viviamo, con una flora e una fauna con sfaccettature impensabili e incalcolabili, è impossibile pensare che la Chiesa che appartiene al Dio Trino possa essere insignificante, incolore e piatta. Nonostante l'impossibilità di calcolare il numero dei fiocchi di neve, come dei granelli di sabbia del mare, non uno di essi è uguale all'altro, e così anche per i figli di Dio che formano la Chiesa, ognuno di essi ha una particolarità sia umana sia divina. La peculiarità umana è una caratteristica che tutti gli uomini hanno, ma la peculiarità divina è una caratteristica che appartiene solo ai figli di Dio, mediante la quale essi formano un corpo, il corpo di Cristo. L'accostamento fra la Chiesa e un corpo dopo 2000 anni dalla resurrezione di Cristo non è una novità, perché se ne parla nelle comunità con insegnamenti cristiani. Ma i primi a paragonare la Chiesa ad un corpo sono stati gli apostoli, e in modo particolare l'apostolo Paolo. I cristiani del primo secolo non conoscevano l'aspetto della Chiesa come corpo, e Paolo ha dovuto chiarire alcune cose al riguardo. I credenti di Corinto, per esempio, abbondavano in doni spirituali, chiedendosi da dove venivano questi doni e quale utilità avessero, così Paolo nella sua prima lettera approfitta di questa occasione per istruirli in merito. 1 Corinzi capitolo 12. Ora, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali,

Né parimenti il capo può dire ai piedi: io non ho bisogno di voi. L'individualismo è la piaga più grande di una comunità e l'orgoglio dell'indipendenza è la più grande tentazione delle più dotate personalità. Spesso sono i credenti con doni evidenti a creare maggiori problemi nella Chiesa, perché essi sanno servire il Signore, ma non hanno imparato a servire i fratelli. Ogni credente è un essere individuale che deve poter vivere indipendentemente dagli altri, senza però cadere nell'individualismo. Quando io, essere individuale, mi comporto da individualista? Certamente in molti modi e in molte maniere, ma quando il mio agire non è in armonia con la Chiesa alla quale appartengo e non agisco per la sua crescita, allora mi comporto da individualista. I doni che Dio ha dato alla Chiesa come corpo devono essere espressi per il bene di questo, in armonia con esso. Diversamente si agisce per rivalità o comunque non motivati dall'amore, quell'agire che produce del bene al prossimo. Cristo Gesù è morto per unire e riconciliare i figli di Dio e perché armoniosamente servano il Dio Trino. Perciò ogni problema di comunione fraterna deve essere risolto con questo obiettivo. E questo è il tuo metodo per risolvere i problemi di Chiesa? Della tua Chiesa? L'Apostolo Paolo fa presente che tutti abbiamo bisogno gli uni dagli altri, eppure ci sono persone che dicono: faccio solo ciò che io trovo giusto. Non mi importa quello che pensano gli altri. A me basta essere in regola con il Signore. Eppure, la vita cristiana è un gioco di squadra, dove ognuno mette il suo dono o i suoi molteplici doni al servizio della Chiesa perché si possa raggiungere il vero obiettivo, cioè edificare il corpo di Cristo. Secondo Dio, la divisione è sempre il risultato di un'opera umana e non dello Spirito Santo. È questione di fede, quella fede che permette di cambiare il nostro modo di pensare. Un corpo umano nel quale tutte le membra stanno in relazione fra loro e sono reciprocamente al servizio le une delle altre, avendo ciascuna parte la sua giusta collocazione e utilità, non può avere membra più utili e meno utili, ma tutte hanno lo stesso valore. Proprio per questo la Chiesa è il luogo dove nessuno dovrebbe avere per nessun motivo complessi di inferiorità, e Paolo lo fa presente dicendo addirittura che le parti che sembrano più inferiori sono le più necessarie. Anzi, le membra del corpo che sembrano essere le più deboli sono molto più necessarie delle altre, e quelle che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo le circondiamo di maggior onore, e le nostre parti indecorose sono circondate di maggior decoro, ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno. Perciò Dio ha composto il corpo, dando maggiore onore alla parte che ne mancava, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutte una medesima cura le une per le altre. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono, mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Or voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. La similitudine della Chiesa di Cristo con il corpo ci parla anche dei svariati doni dei figli di Dio. Ma essi devono essere compresi correttamente. Mentre la salvezza è concessa a tutti coloro che pongono fede in Cristo, i doni sono assegnati per l'utilità di tutti i credenti. Perciò possedere un dono di per sé non costituisce prova di spiritualità o di comunione con Dio, ma piuttosto della svariata grazia di Dio data alla Chiesa. Coloro che non conoscono o non percepiscono la natura e il corretto uso dei doni con i quali sono stati arricchiti ne fanno un pessimo uso, a volte disprezzando gli altri doni o soffocandoli, altre volte non usandoli in armonia con il corpo di Cristo. La similitudine della Chiesa di Cristo quale corpo di Cristo dovrebbe urlare alla coscienza di ogni figlio di Dio affinché imparino tutti ad agire armoniosamente come un corpo umano e perché ogni membro di Chiesa tenda ad avere una mente comune e uno stesso modo di pensare, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno stimi gli altri più di se stesso e non cerchi unicamente il proprio interesse ma anche quello degli altri, Filippesi 2.1.4. Questo è il modo di agire di un corpo umano. Questa deve essere l'espressione delle differenti funzioni dei figli di Dio. vivere con una diversità di desideri alla ricerca di un'unità di obiettivi. 7. La Chiesa di Cristo come una famiglia. La similitudine tra la Chiesa di Cristo e una famiglia ci parla dei legami e delle relazioni esistenti fra i figli di Dio. Quando si parla di relazioni occorre ricordare che ogni vera relazione non può prescindere dal modello esistente nel Dio Trino. Secondo la dottrina cristiana tramandata una volta per sempre, nella divinità sussistono tre persone, aventi un'unica natura divina eterna. Dio è uno, ma non è solo. Dio è Trino, diversamente non è. Proprio per questa peculiarità, all'interno della divinità sussiste una relazione unica ed eterna, relazione che rivela le caratteristiche di ogni persona che vi si trova all'interno, la quale è ben distinta dalle altre per quanto sussistente nella stessa natura. La persona del Padre non è quella del Figlio e dello Spirito Santo. La persona del Figlio non è quella del Padre e dello Spirito Santo. La persona dello Spirito Santo è distinta da quella del Padre e del Figlio. La realtà dell'esistenza di un solo Dio, ma in tre persone distinte, rende possibile che in seno alla Trinità vi sia un rapporto. Perché se Dio fosse uno, nel senso di unità assoluta, se non vi fosse l'eterogeneità di un'altra persona con la quale relazionarsi, non vi sarebbe relazione ma solo sussistenza. Così, quando si afferma che Dio è amore, questa dichiarazione ha la sua ragion d'essere, perché in seno alla divinità vi sono l'amante, e l'amato ha 20 caratteristiche proprie di ciò che ognuno è. La persona del Padre è il Padre. La persona del Figlio è il Figlio. La persona dello Spirito Santo è, per una certa teologia, la Madre. Così è per tutte le definizioni attribuite a Dio: pietoso, clemente, santo, giusto, eccelso. Definizioni, queste, che non avrebbero senso se non fossero rapportate a ciò che è o si presenta come altro. Senza l'altro, un diverso, seppur partecipe della stessa natura, nessuna definizione ha senso. E, come dire che esiste il bianco, se non ci fossero altri colori, il colore non esisterebbe. Se non ci fosse il buono, il cattivo non avrebbe senso. Perciò, se vogliamo comprendere in che cosa consiste la relazione fraterna, i credenti devono considerare e vivere ogni loro rapporto, in modo tale da rispecchiare il modello delle relazioni esistenti nella Trinità. Questo significa che il credente, prima di avere una relazione con prossimo, è un individuo, una personalità, che si relaziona con individui e personalità distinte da lui. L'ideale è che i figli di Dio come Chiesa debbano arrivare ad una relazione tale da fondersi a mo' di purè al punto che ognuno perda la sua propria personalità è un concetto panteistico più che cristiano. Come in una famiglia ogni membro mantiene le proprie caratteristiche e personalità, così nella famiglia di Dio ogni credente esprime interamente la propria personalità e peculiarità, rese queste sempre più giuste dalla relazione delle relazioni, cioè la relazione con il Dio Trino, l'unico Dio, l'unico che si relazioni con se stesso e con le sue creature. Infatti, benché Dio si sia definito l'eccelso, l'alto, Isaia 57,15, benché nessuno sia simile a lui, Isaia 46,9, è in grado di relazionarsi con gli uomini perché una delle tre persone sussistenti nella divinità si è fatto uomo a tutti gli effetti. Pur rimanendo divino, Cristo Gesù ha assunto la natura umana per potersi relazionare con gli uomini in tutto e per tutto. Con la sua natura umana Gesù era in relazione con la Trinità e, morendo in croce per togliere il peccato, ha dato al genere umano la possibilità di avere relazione con la santa divina relazione trinitaria. Questo aspetto non deve essere dimenticato quando si parla di relazioni, perché se i figli di Dio hanno rapporti tra di loro, prima di tutto hanno un legame con il Dio Trino, reso possibile mediante la morte e la resurrezione di Cristo. Che tipo di relazione hanno i credenti tra di loro? Come figli di Dio, è evidente che i credenti hanno una relazione fraterna essendo membri di una stessa famiglia. Ecco come l'Apostolo Paolo, in una sua lettera, ha specificato la posizione dei credenti in Cristo. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Efesini 2.1-9.20. Figli di Dio, espressione che sembra dir poco, ma il cui contenuto è fuori dalla nostra portata. Assieme ad altri credenti, ebbi occasione di portare l'Evangelo in una località a me sconosciuta. Mentre parlavo di perdizione eterna con un giovane, questo, un poco risentito, mi disse: «Ma lei non sa con chi sta parlando?» In effetti non sapevo nulla del giovane con il quale parlavo. Al mio assenso con un'aria boriosa egli continuò dicendo: «Lei sta parlando con il figlio del sindaco». Per nulla intimorito, risposi: «Ma lei sa con chi sta parlando?» Il giovane rimase di stucco, ed io, senza attendere tanto, dissi: «Lei sta parlando con un figlio di Dio. Un figlio di Dio prima di tutto è orgoglioso di suo padre, perché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Inoltre un figlio di Dio è orgoglioso dei suoi fratelli e di appartenere alla famiglia di Dio. È vero che vi sono figli di Dio che non onorano il loro padre, ma questo non invalida il fatto che vi siano dei cristiani che esprimono pienamente le caratteristiche del loro padre. Così, nella famiglia di Dio vi sono credenti che hanno a cuore la comunità, i quali per questo presiedono negli incontri e sono indicati con il nome di conduttori, anziani o presbiteri. Altri credenti desiderano servire la Chiesa in mille modi e in mille maniere. Si tratta dei diaconi. Poi vi sono tanti altri credenti che si occupano di altre cose, riassunte da Paolo in queste brevi esortazioni. Avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. Romani 12:6-8. La relazione fraterna è cimentata dall'amore. L'insegnamento, con quell'amore che cerca l'incoraggiamento e con l'aiutare i bisognosi. Essendo una famiglia, avendo uno stesso padre, i figli di Dio desiderano piacere prima di tutto a Lui e poi hanno l'obiettivo di aiutare i loro fratelli. L'Apostolo Paolo fa presente questo aspetto in una sua lettera. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Efesini 4:28. Che stupenda visione ha il cristianesimo! Non solo i suoi seguaci devono essere giusti, ma devono anche avere la prospettiva di aiutare il prossimo. Il bene del prossimo con l'esortazione, buddismo dal quale alcuni sono sedotti meno, non ha questa visione. E così alcune religioni. Far parte della famiglia di Dio significa, come sta scritto, provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità, Romani 12.1-3. I cristiani non sono un gruppo di persone che si ritrovano per giocare a carte e poi ognuno se ne torna per la sua strada, ma obbediscono con tutto il loro essere al comandamento di Dio che l'Apostolo Pietro ha così riassunto. Avendo purificato le anime vostre, con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. 1 Pietro 1.22. Se è bello essere figli di Dio, non lo è di meno far parte della famiglia di Dio. 8. La Chiesa di Cristo come un popolo. 1 Pietro 1.9-10. La Chiesa di Cristo vista come popolo ci parla di persone che hanno in comune una storia e dei costumi. In effetti, anche se comunemente si pensa che la storia della Chiesa e del cristianesimo risalgano poco più di 2000 anni, in realtà essa si perde nella notte dei tempi, partendo cioè da quando Dio tramite Cristo creò i cieli e la terra. Non solo, poiché la creazione e la redenzione erano stati concepiti in Dio, possiamo dire che la storia della Chiesa ha inizio in Dio. Questo non è un concetto panteistico, ma è una semplice dichiarazione della parola di Dio rilasciata per mezzo della penna di Paolo nella lettera ai credenti di Efeso. Così inizia il suo scritto. Paolo, apostolo di Cristo. Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia, che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. Dunque Paolo inizia la sua lettera ringraziando Dio per mezzo di Cristo, perché, prima della fondazione del mondo, aveva determinato in se stesso di adottare come figli per mezzo di Gesù Cristo tutti coloro che avrebbero posto una fede salvifica nell'opera di redenzione di Gesù. Una certa corrente teologica interpreta che Dio aveva destinati e scelti prima della creazione del mondo alcune persone alla salvezza, ma leggendo senza preconcetti lo scritto di Paolo è evidente che la predestinazione alla quale si rifà Paolo consiste nell'essere figli di Dio e non nella salvezza dell'anima. Associare la salvezza alla posizione di essere figli di Dio è un errore nel quale sono caduti i calvinisti, ma è evidente che nella parola di Dio la posizione dei salvati non è uguale per tutti. Ne è un esempio il fatto che alcuni regneranno con Cristo mentre altri no. Dunque, la storia del cristiano e della Chiesa era già stata determinata in Dio prima della fondazione del mondo, e noi ora possiamo vederne i piani. Proprio perché i piani di Dio per i salvati non sono iniziati 2000 anni fa, il cristiano si avvale dell'opera che Dio ha iniziato per mezzo di Cristo dalla creazione, dalla formazione dell'uomo, dalla polvere della terra, fa integrare alla sua fede in Gesù la chiamata di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, la sua fede è quella rivelata a Mosè nel pruno ardente sul monte Sinai e condivide pienamente le rivelazioni date da Cristo a Davide e ai La storia della fede del cristiano è la storia del popolo di Israele. È la storia della Chiesa nascente al tempo degli Apostoli. È la storia della Chiesa nel corso degli ultimi 2000 anni. È per questo che la Chiesa di Cristo è vista come un popolo, perché il cristiano di oggi è il risultato di eventi che lo hanno preceduto, come gli italiani di oggi sono il risultato degli eventi che li hanno preceduti. Il cristiano fa parte di un popolo non solo storicamente, ma anche per le abitudini e i costumi. Con questo non si intende che i credenti in Cristo, in qualsiasi cultura e nazione, vestano nello stesso modo o parlino la stessa lingua, meno anche se qualcosa li accomuna pure in questo meno, ma essi hanno delle abitudini e un linguaggio tipici di chi fa parte di un solo popolo. Le abitudini comuni tipiche del popolo di Dio sono la preghiera rivolta a Cristo, la lettura della parola di Dio, la vita comunitaria e la cena del Signore. Anche la predicazione del Vangelo di Cristo fa parte del costume del popolo di Dio, come pure il contenuto del messaggio. Per il popolo di Dio vi è un solo Signore, un solo Salvatore, un solo Mediatore tra Dio e gli uomini, un solo uomo da adorare e venerare, cioè Gesù Cristo. Inoltre, chi appartiene al popolo di Dio ha il diritto di leggere, capire e interpretare le scritture senza l'autorizzazione di un magistero come quello cattolico romano, perché ha dato alla parola di Dio l'autorità di essere la sua sola regola di fede e di condotta. Ciò che caratterizza la Chiesa come popolo è soprattutto la santità, cioè quella condotta che è gradevole a Dio senza essere necessariamente approvata anche dagli uomini. Per questo chi si sente parte della Chiesa veste in modo decoroso, ha un parlare teso a produrre del bene al prossimo, non fa le sue vendette, aiuta i suoi fratelli in fede, non odia il prossimo e nutre costantemente il desiderio che Cristo ritorni per regnare sulla terra. Essere credenti e far parte del popolo di Dio significa prendere coscienza che ogni parola e ogni azione possa onorare e disonorare il popolo al quale si appartiene. Il simbolismo della Chiesa come popolo è dunque potente da cambiare la vita a chi gli appartiene. 9. La Chiesa di Cristo come un sacerdozio. La similitudine fra la Chiesa di Cristo e il sacerdozio ci parla del servizio del credente di fronte a Dio. Questo aspetto è espresso molto chiaramente da Pietro nella sua prima lettera. Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa, voi che prima non eravate un popolo ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia ma ora avete ottenuto misericordia. 1 Pietro 2.9.10. In questo brano l'apostolo Pietro mette in evidenza alcuni aspetti della Chiesa, cioè che è una stirpe santa, un popolo di Dio, ma anche un sacerdozio regale. Per comprendere l'espressione sacerdozio regale, è necessario considerare chi è un sacerdote. In senso generale è un ministro di culto, come nel caso di Jetro, suocero di Mosè, sacerdote di Madian, ma nell'ambito della religione stabilita da Dio per il popolo ebraico si trattava di quella persona scelta dall'Eterno per svolgere sia il servizio sacro, sia un compito di intermediazione tra Dio e gli uomini. Così, la Chiesa non ha una chiamata vaga ad adorare continuamente un Dio vago, ma la sua missione è servire Gesù Cristo nell'ambito del suo regno. L'Apostolo Pietro la riassume in queste parole: accostandovi a Lui pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. 1 Pietro 2.4.5 potrebbe portare all'inganno l'espressione che il credente è chiamato ad offrire sacrifici spirituali, pensando che sia riferita a delle offerte mistiche, ma l'espressione vuol dire che il credente è chiamato a vivere ogni giorno concretamente per Dio sotto la conduzione dello Spirito. Esprime molto bene questa verità l'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Romani. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Romani 12, 1. Non vi è dubbio che presentare i propri corpi in sacrificio vivente si riferisca a qualcosa di concreto che debba essere consacrato o appartato per Dio, definito da Paolo un culto spirituale. Così, se la Chiesa ha avuto la chiamata a offrire come sacerdote sacrifici spirituali, ne consegue che essa ogni giorno deve appartare per Cristo tempo, denaro, affetti, dedicandoli a Dio. Non sono molti figli di Dio impegnati nel regno di Cristo, forse proprio per questo è utile vedere alcune ragioni per le quali è necessario e indispensabile che la Chiesa eserciti il ruolo di sacerdote. Per prima cosa la Chiesa è in obbligo di servire il suo Salvatore perché, come sta scritto, Gesù morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi ma per colui che è morto e... 2 Corinzi 5.1.5. Servire Cristo, dunque, per il singolo credente. E la Chiesa non è una scelta facoltativa ma un obbligo morale. Gesù è morto per tutti gli uomini per liberarli dalla condanna eterna e da una vita piena di paure e di disubbidienza a Dio. A loro volta tutti quelli che accettano per fede il sacrificio sostitutorio di Cristo non sono liberi di vivere come desiderano, ma devono sottoporre la propria esistenza alla volontà di Cristo, il loro Salvatore. Troppi credenti si limitano a ritenere la salvezza solo un dono da ricevere, ma un dono, per essere ritenuto tale, deve implicare la riconoscenza. Diversamente il dono risulterà disprezzato. Un credente che non ha compreso quanto la riconoscenza valorizza il grande sacrificio di Cristo, vive una vita ingrata, non glorifica Dio, non è portato al servizio per il regno di Cristo, testimoniando con la pratica di non aver compreso il valore inestimabile del sacrificio di Gesù. Perciò, se la Chiesa onora il proprio ruolo sacerdotale, lo si deve alla naturale reazione all'amore di Gesù Cristo, perché, come sta scritto, noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Il ruolo di sacerdote ci parla altresì intermediazione. Pur essendoci un solo intermediario tra Dio e gli uomini per la loro salvezza, è vero che i credenti sono il mezzo che Dio usa per far pervenire loro il Vangelo. Ogni credente dovrebbe sentire la grande responsabilità di annunziare il messaggio del Vangelo perché, come abbiamo letto, la Chiesa ha il ruolo di sacerdozio regale per proclamare le virtù di colui che l'ha chiamata dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Il sacerdozio della Chiesa è dunque rivolto verso Dio ma anche verso gli uomini. Mancando in uno di questi compiti, la Chiesa viene meno alla sua chiamata, e alla sua espressione d'amore, quell'amore che non ha misura. Come disse qualcuno, se l'amore umano non trasporta colui che ama al di là dei suoi limiti, non è vero amore. Se l'amore è sempre discreto, sempre prudente, sempre ragionevole nel calcolare i pro e i contro, se non va mai oltre se stesso, non è affatto amore. Potrà essere affetto, potrà essere calore di sentimenti, ma non ha la particolare natura dell'amore vero. 10. La Chiesa di Cristo come una sposa. La similitudine fra la Chiesa di Cristo e una sposa ci parla della sottomissione, dell'affetto e del legame a Cristo. Questo aspetto merita di essere considerato per ultimo non perché sia di scarsa importanza, ma perché generalmente ciò che si legge o si ascolta per ultimo rimane più in mente. Il fatto che la Chiesa sia la sposa di Cristo non è un'opinione comune nelle religioni, anche se in varie religioni le divinità hanno alcuni legami con i mortali. Generalmente, però, la divinità rimane talmente altro o talmente distante dall'uomo da impedire la possibilità di qualsiasi rapporto con essa. È sufficiente pensare alla religione dell'Islam, dove Allah è insondabile e inavvicinabile, perciò all'uomo credente non resta che adorare e sottomettersi irrazionalmente a un Dio ignoto. È da notare che già prima della venuta di Cristo esisteva la visuale della divinità creatrice come sposa della creatura, sia perché la cultura del popolo di Israele abbondava in similitudini, per esempio il sole immaginato come uno sposo che esce dalla camera nuziale, Salmo 19.5, sia perché i discorsi rivolti dall'Eterno Dio al suo popolo di Israele dovevano comunicare delle realtà concrete. Nel libro di Isaia abbiamo un esempio di questi discorsi espressi in similitudini tese a comunicare questo rapporto tanto particolare quanto intimo con il suo popolo. Non temere, perché non sarai confusa. Non aver vergogna, perché non dovrai arrossire. Dimenticherai anzi la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza, poiché il tuo creatore è il tuo sposo. Il suo nome è l'Eterno degli eserciti. Il tuo Redentore è il Santo di Israele, chiamato Dio di tutta la terra. Poiché l'Eterno ti ha chiamato come una donna abbandonata e afflitta nel suo spirito, come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. Isaia 54.46. Fra tutti i legami esistenti nella società umana, il matrimonio è certamente il più profondo, perciò per l'Eterno Dio non esisteva un'immagine migliore per dimostrare il legame con il suo popolo se non quella di uno sposo e di una sposa. E non solo. Il popolo di Israele era talmente disperato e afflitto da essere paragonato ad una donna vedova, abbandonata o ripudiata dal marito, ma nonostante questo l'Eterno l'aveva accolto come una sposa legittima. E con questi presupposti che occorre leggere i Vangeli e il Nuovo Testamento, perché chi non è ebreo non può cogliere il messaggio di Dio nella sua totalità, dimostrando ancora una volta la grande importanza, o meglio, l'indispensabilità di ripristinare l'ebraicità del Vangelo di Cristo. Il primo a dichiarare che Gesù era lo sposo della Chiesa fu Giovanni il Battista, mentre rispondeva ai farisei che domandavano se lui fosse il Cristo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto, io non sono il Cristo ma sono stato mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente e lode, si rallegra grandemente alla voce dello sposo, perciò questa mia gioia è completa. Giovanni 3.2.8.29. Anche in un'altra occasione Giovanni prende in prestito l'immagine di Gesù come sposo. Allora si accostarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi i farisei digiuniamo spesso, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono gli amici dello sposo essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Matteo 9.1.4.15. Con queste risposte, Giovanni dichiarava apertamente Gesù come lo sposo, ma pochissimi credenti di oggi hanno compreso la provocazione, la profondità e l'ebraicità della risposta. Nel dichiarare Gesù lo sposo, Giovanni stava niente meno dicendo che Gesù era Yahweh, cioè la divinità del popolo di Israele, il Dio che si era rivelato ad Abramo, a Mosè, a Davide e ai profeti. Infatti, come abbiamo letto, il profeta Isaia, uno dei profeti tra l'altro più conosciuti dagli ebrei, dichiarò: «Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è l'Eterno degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, chiamato Dio di tutta la terra». Isaia 54.5. Il popolo di Israele aveva come sposo il Creatore, l'Eterno degli eserciti, il Redentore e il Santo di Israele, perciò non solo nessun altro poteva avere queste caratteristiche, ma neppure essere lo sposo, il Creatore, il Redentore e il Santo di Israele. Eppure, i primi cristiani, degli ebrei fedeli a Yahweh, hanno riconosciuto in Gesù non solo il Creatore, il Redentore, il Santo di Israele, ma addirittura anche lo sposo di quell'Israele che avrebbe fatto parte della Chiesa. Per questa ragione possiamo dire che gli ebrei non credevano in Dio come noi lo intendiamo oggi, ma credevano in Yahweh e che Yahweh fosse il loro Dio, cioè la loro divinità. Infatti il profeta Isaia ha dichiarato che l'Eterno degli eserciti, il Redentore, il Santo di Israele, è, chiama Antico Testamento, Dio di tutta la terra. Dunque, è Yahweh, lo sposo, che viene chiamato Dio, e poiché Cristo Gesù è lo sposo, egli è il Dio dell'Antico Testamento. Se così non fosse, i cristiani sono nel più profondo errore. Anche Gesù ha dichiarato in modo diretto di essere lo sposo della Chiesa, e lo fece quando raccontò la parabola delle 10 vergini. È vero che non disse esplicitamente di essere lo sposo della Chiesa, perché questa verità doveva ancora essere rivelata, ma terminò la parabola dicendo: «Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà». Matteo 25.12. Poiché il Figlio dell'uomo è solo Gesù Cristo, è evidente che Gesù ha detto di prepararsi per il suo ritorno in veste di sposo. Così, una volta gettate le basi in merito al significato delle parole di Giovanni e di Gesù alla luce della cultura ebraica, il messaggio del Vangelo degli Apostoli mantiene questo aspetto, dichiarando che Gesù è lo sposo di coloro per i quali egli è morto e risorto. A volte la sposa è dichiaratamente vista nelle persone, come nel caso di ciò che ha scritto Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. «Io sono infatti geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a uno sposo, per presentarvi a Cristo come una casta vergine». 11.2. Altre volte, la sposa di Cristo è simboleggiata in una città, come nel caso dell'Apostolo Giovanni nella lettera dell'Apocalisse. «Poi venne uno dei sette angeli, che avevano le sette coppe piene delle ultime sette piaghe, e parlò con me, dicendo: Vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E mi trasportò in spirito su di un grande ed alto monte, e mi mostrò la grande città, la santa Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso Dio, avendo la gloria di Dio». 21.9.11. Bisogna riconoscere che certe immagini non sono così immediate nella nostra cultura occidentale, perché collegare una sposa ad una città o ad una cavalla, come fa il libro del Cantico dei Cantici, per noi è molto inusuale se non offensivo. Ma la cultura è cultura, e piuttosto di giudicarla è saggio cercare di comprenderla. Però che la sposa sia paragonabile ad una città è comprensibile perché, come abbiamo già esaminato nel quinto studio, il credente è paragonato ad una pietra, ma non una pietra qualsiasi, bensì alla pietra che costruisce il Tempio di Dio e la Santa Città di Gerusalemme. Se la similitudine della Gerusalemme celeste non ci dice nulla, per forza di cose non ci dicono nulla anche le similitudini che il credente è come una pietra, che Gesù è la pietra angolare dell'edificio che deve servire da Tempio al Dio vivente. Forse lo sforzo del credente prima del ritorno di Cristo è, e sarà, comprendere le similitudini per trarne una edificazione personale. È una sfida non da poco. Molto probabilmente l'immagine più forte in relazione alla Chiesa come sposa ci viene dall'Apostolo Paolo in un brano dove dava ordini in merito al matrimonio. Da un lato non deve sorprenderci, perché, come abbiamo considerato, già nell'Antico Testamento Cristo si presentava come lo sposo del popolo di Israele, Perciò presentare Cristo come lo sposo della Chiesa non era un'idea originale e neppure una novità. Così la parola di Dio ordina ai mariti di amare le loro mogli come Cristo ha amato la Chiesa al punto di dare la sua vita per lei, mentre alla moglie ordina di essere sottomesse ai mariti come la Chiesa è sottomessa a Cristo. Una riflessione certamente non nuova per chi legge e ascolta la parola di Dio. Ma ciò che sfugge alla maggioranza delle persone è che il compito della Chiesa è l'essere sottomessa a Cristo, per esprimergli affetto e riconoscenza. Riconoscenza perché Cristo ha amato la Chiesa ed è morto per lei così com'è, cioè una composizione di persone malvagie e non degne di essere amate. Affetto perché ogni giorno la Chiesa non è trattata secondo i suoi peccati, ma viene curata e preservata dal male. Dunque, un marito per amare la moglie deve morire, cioè rinunciare ai propri diritti, mentre la moglie deve riconoscere nel marito un'autorità dalla quale dipendere e sotto la quale trovare protezione e sostentamento. Un rapporto del genere è funzionale, pratico e mutuamente accettabile, ma purtroppo impossibile da realizzare nel caso che uno dei partner venga meno al suo compito. Così è della Chiesa. Se una sposa per essere tale deve cercare la comunione con il suo sposo, deve condividere con lui ogni cosa, partecipare ai propri stati d'animo al marito, rinunciare alla propria individualità per avere con lo sposo stessi obiettivi e stessi sentimenti, allora il credente singolo e la Chiesa devono coltivare una vera comunione con Cristo. Devono conoscerne i pensieri, gli obiettivi e rinunciare ad una vita individualistica. Se così non è, il matrimonio tra Cristo e la Chiesa non funziona, e la mancanza di questo tipo di relazione si vede e si ripercuote nel matrimonio umano e nella società. Se oggi il matrimonio va a rotoli è perché o la donna, o il marito, o entrambi non ubbidiscono a Cristo. Forse, come nel matrimonio umano, più passa il tempo, più si è tentati a non esprimere più amore e non cercare più l'armonia. Così la Chiesa, dopo 2000 anni, ha perso il primo amore e non cerca Gesù come suo sposo. Fatto questo, che non deve scoraggiare ma spronare ogni figlio di Dio ad amare Cristo sopra ogni cosa, perché, dopo tutto, lui appartiene alla Chiesa, cioè alla sposa di Cristo. E lo Spirito e la sposa dicono: vieni, e chi ode dica: vieni. Apocalisse 22.17. Colui che testimonia queste cose dice: sì, vengo presto, amen. Apocalisse 22.20. Aprile 2007. Ellero.